macchina, mi metto in viaggio per dove boh, scoprire la destinazione. Un paesino su per la montagna, poca gente in inverno e una lagna. Siamo pochi, alcuni arrivati dopo, miglioriamo le amicizie giorno dopo giorno. Capita la destinazione, ma sono ancora in viaggio. Osservo il cambiamento del paesaggio come un saggio, dal grigio imbrattato di tutta la città. Ora campi, boschi, qualche frazione qua e là. Sguardo attento e mi pita all'orecchio. Io con niente mi diverto qui in mezzo alla natura. Serate al burgo, guardare la luna, stelle, tutte le costellazioni, ma inutile contarle, sono milioni. Perdo il conto, mi fermo, così penso perplesso. Chi ha creato tutto questo? Cielo, piante, ogni meravigliosa creatura, ogni singola parte di natura. Stupende montagne, tane per molti, aquile, falchi, cinghiali, volpi. Meravigliosi posti, fiumi, ciattoli, torrenti ovunque, ammissibili a chiunque. Ovvio, non è come il mare, non ti puoi tuffare, ma che buoni amici puoi scherzare qui. Un clima stupendo, ma di nuovo perplesso, perché sta finendo tutto questo. Tornerò alla grande Black City, tre brete di MC. Guardo ancora quella stella, la vedo piccola ma immensa, nel grandioso immersa tra mille pensieri. La mia mente si è persa e ripensa all'estate passate, in bici, varie passeggiate, anche discese spericolate, partite al campetto, feste e tornei, una vita tranquilla è ciò che non vorrei. Ma ora che tutto sta per finire, alla prossima estate, in me, io devo dire, perché son pochi quelli che continuerò a vedere, pochissimi riempiranno le giornate nere. La mente si riprende, non guardo più il cielo, pur essendo ancora forte il pensiero. È notte, devo partire, vedo tutto nero. Ora per la city, un buon ritorno io spero.